24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 16 minuti e 20 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo lunedì 23 marzo. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella, buon inizio di settimana. Buongiorno Simone, buon inizio di settimana a te e a tutti quelli che ci ascoltano in questa fase così complicata per tutti noi. E ci possono raggiungere come sempre al 349-238-6666, sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, soprattutto la vostra voce, ci fa piacere sentire in questo periodo, anche all'800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Io partirei subito con il nostro ospite che è Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia. Buongiorno Fontana, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Senta, abbiamo di fronte settimane, forse mesi ancora, molto difficili. E assistiamo però da un lato a momenti in cui sembrate andare tutti d'accordo, Regione e Governo centrale, altri momenti invece di frizione. È successo così anche rispetto al decreto del Presidente del Consiglio. Secondo il Ministro per gli Affari Regionali, Boccia, è più restrittivo dell'ordinanza che lei, Presidente, aveva emesso poche ore prima e forse, dice il Ministro Boccia, sarebbe stato meglio se la Lombardia avesse aspettato. Ci può dire una parola chiara per quanto riguarderà l'immediato futuro, perché i cittadini, lo dicono anche i sondaggi, l'ultimo anche quello di Ilvo Diamanti oggi su Repubblica, si aspettano in un momento così grave che le istituzioni alle quali fanno riferimento lavorino per un obiettivo comune. Quindi come intende lei comportarsi rispetto al governo centrale e che cosa si aspetta da loro? Ma guardi, io col governo centrale ho sempre collaborato, poi è chiaro che in momenti di tensione ci può essere qualche frizione, ci mancherebbe anche altro, si hanno delle opinioni diverse e si esprimono. Io credo che il ministro Boccia abbia detto parzialmente una cosa vera, nel senso che è ovvio che il decreto del Presidente del Consiglio affronta un aspetto che io nelle mie competenze non potevo affrontare, che è quello delle attività produttive. Io non potevo assolutamente entrare in una materia che ha una rilevanza di carattere nazionale, tenuto conto delle filiere che sono intricatissime, per cui si rischia di chiudere un'azienda a Milano e creare un danno a Napoli, per dire quanto siano intricate queste filiere. E dall'altro lato io ho semplicemente chiesto che venissero almeno per la regione territorio lombardo salvaguardate quelle ulteriori chiusure che noi avevamo previsto, che erano quelle legate agli studi pubblici, legate alle professioni, legate agli alberghi, quella sanzione sugli assembramenti, la chiusura dei cantieri edili, visto che avevamo raggiunto un accordo con ANCI e Lombardia che voleva comunque darci la disponibilità a chiuderli. Quindi io l'ho emesso perché avevo una pressione da parte di tutti i sindaci dei capoluoghi, perché avevo una pressione da parte degli stakeholders che avevo riunito sabato pomeriggio, e quindi tutti mi dicevano vai con questo provvedimento, e sono andato. Da parte del governo non avevo ancora ricevuto neppure una bozza, per cui mi sembrava che ci potessero essere ancora avanti dei giorni, visto che comunque il provvedimento scadeva, il precedente sarebbe scaduto mercoledì, quindi pensavo che il governo potesse decidere di tirare in lungo fino a mercoledì. Invece poi ci sono sovrapposti provvedimenti. Sì. Vabbè, vediamo. Fontana, una domanda importante, mi scusi, sono sovrapponibili a questo punto il vostro provvedimento e il provvedimento del governo oppure no? Perché con tutta questa vicenda dei codici Ateco, di quali attività devono star chiuse e aperte? Tutto quell'aspetto è un aspetto nel quale io non entro. Ripeto, i codici Ateco si riferiscono all'attività produttiva, per cui le uniche differenze sono quelle che ho elencato prima io sostanzialmente, sono quelle 4-5 differenze sulle quali io ancora ieri ho detto che chiedevo che rimanessero almeno per la Lombardia. Ci ho detto chiederemo se il provvedimento mio viene spazzato via dal provvedimento del governo, se il mio provvedimento rimane. Oggi infatti ho detto cercheremo di fare degli approfondimenti e cercheremo di chiarire quale dei due sia in vigore, ecco. Presidente, prego. Sì, no, solo una domanda, una precisazione ulteriore su questo. Nel caso vostra ordinanza venisse, per così dire, superata dal decreto, e quindi il decreto, no, vi trovaste nella condizione nella quale la vostra ordinanza non è applicabile perché il decreto in qualche misura la supera, che cosa fareste, Fontana? Niente. Piacerebbe, ma non farei assolutamente niente, ecco, direi che preferivo che fosse rimasta in vigore la mia, perché era un pochettino più restrittiva, perché chiudeva qualche ulteriore attività e quindi dava l'opportunità minore di ulteriori possibili contatti umani. Non farò assolutamente niente. Presidente Fontana, nella Regione Lazio, ce lo ha raccontato l'assessore alla sanità D'Amato proprio qualche giorno fa, qui a 24 mattino, stanno sperimentando una app, una nuova tecnologia che consente ai malati non ricoverati di ricevere informazioni in modo da non sovraccaricare gli ospedali, pronto soccorso che hanno già tantissimo da fare, e il Lazio è in una condizione neanche da lontano confrontabile con la vostra. È in corso un dibattito e bisogna prendere una decisione rapidamente se seguire quello che è stato l'esempio della Cina, della Corea del Sud, di Israele, e cioè cercare contemporaneamente di proteggere la salute e la privacy ricorrendo a delle misure di tecnologia che informino per esempio tutti noi cittadini se ci sono degli altri cittadini in forma anonima, ecco, che sono malati, in modo da evitare i contagi. In Corea del Sud, in Israele, sta dando un grande risultato. Lei personalmente, e anche come capo della Regione Lombardia, come vede questa ipotesi? È a favore o è contro? Ma guardi, innanzitutto noi stiamo oggi in giunta, approveremo un provvedimento che va più o meno nella stessa direzione, anche se non attraverso la tecnologia, ma attraverso l'apporto dei medici di base, diciamo, i medici di famiglia. Abbiamo raggiunto con loro un accordo per avere una maggiore incidenza sulle persone che si trovano a casa, poterle andare a trovare più spesso, poter capire quelle che hanno dei disturbi, eccetera. Tornando alla sua domanda, io personalmente sono dell'opinione che quando si va in guerra si deve cercare di superare anche magari delle leggi, che è giusto che ci siano in tempo di pace, ma che in tempo di guerra non ci devono essere. Quindi, per carità, evviva la legge sulla privacy, ma in questo momento, se anche in qualche aspetto forse ci può essere una violazione, se serve per sconfiggere il virus, io sarei assolutamente favorevole all'utilizzo. Presidente Fontana, è evidente dal punto di vista dei numeri che al momento, e speriamo, devo dire, che rimanga così per il resto del territorio nazionale, che la Lombardia è un'anomalia in questo momento, cioè in Lombardia il numero di contagi e il numero di vittime è spropositato, no? Rispetto al resto del paese. Sono stati commessi degli errori? Questo non lo so, ci siamo attenuti a quelli che sono i protocolli che ci sono stati suggeriti dall'Istituto Superiore della Sanità. Io credo che la ragione vera possa essere individuata, guarda che io non sono uno scienziato e non sono neanche medico, per cui quello che le riferisco è quello che ho sentito dire dai nostri scienziati e medici, secondo i quali probabilmente la ragione di questa diffusione è che il virus circolava nella nostra regione già da parecchio tempo, che probabilmente ci sono state delle persone che sono state curate di polmonite o di influenza e invece erano malate di coronavirus, e questo fatto ha fatto sì che il virus circolasse molto, si diffondesse molto e colpisse e coinvolgesse tantissime persone. Quando è emerso il primo caso, non sarebbe stato il primo caso, ma quello sarebbe stato il primo caso che era stato individuato, quindi con una sottostante diffusione che ormai era notevole. Ecco, questa potrebbe essere una giustificazione che riferisco, io non me ne assumo perché non sono in grado di valutare. Si doveva far zona rossa ad Alzano e Nembro, Fontana? Secondo me, adesso, poi dopo dite che io faccio polemica, no, secondo me, sempre secondo la mia valutazione da non scienziato, sì, però gli scienziati hanno ritenuto di no, quindi io alzo bandiera bianca, io non mi permetto di contestare le scelte che fanno persone che sono più esperte di me, io le accetto, e dai tempi in cui andavo a scuola che non contestavo quello che mi diceva l'insegnante. Lei è uomo delle istituzioni, così si propone, però le devo chiedere una cosa che in queste ore è sotto gli occhi di tutti, no? Tra la politica e i tecnici, chi ha l'ultima parola? Lei ha chiamato per esempio in Regione Lombardia Bertolaso, ma alla fine chi decide le cose che si devono fare? Perché lui ha una competenza appunto per mettere in piedi gli ospedali, però sappiamo che è una personalità, diciamo, piuttosto decisionista, piuttosto protagonista. Tra la politica e il tecnico chiamato a risolvere i problemi, alla fine chi ha l'ultima parola? Secondo me nessuno delle due deve avere l'ultima parola, deve essere il dialogo che arriva alla sintesi delle varie esigenze. È chiaro che io non sono in grado di fare un ospedale, è chiaro che questo ospedale si sta realizzando sulla base del grandissimo concorso che stanno portando i nostri medici, i nostri professori universitari, i nostri docenti, gli infettivologi, quelli di medicina di rianimazione, le capacità di Bertolaso di fare sì che le cose stiano insieme e che si riescano a sviluppare in modo coerente, e la volontà nostra di seguire questi consigli. Quindi credo che siano tre le volontà che devono stare insieme se si vuol fare. Io, se avessi dovuto decidere, io non sarei stato in grado di farlo, avrei detto sì, lo voglio fare, ma non so come. I medici e Bertolaso riescono a realizzare questa che è una decisione. Mi scusi se torno sul tema, Fontana, è la questione di Alzano Lombardo, di Nembro, dell'area bergamasca, che è quella che in questo momento sta pagando non solo il tributo più alto di vite e di contagiati, ma è anche la zona sulla quale, insomma, è pieno di gente a casa con Covid-19, magari anche con una polmonite, e non ha la possibilità di andare in ospedale, quindi in una situazione di forte difficoltà. In altre zone d'Italia i presidenti delle regioni, sentito il governo, insomma, gli hanno quasi semplicemente notificato, dicendogli: guarda, questa zona per me deve essere zona rossa, e lo hanno fatto. Penso a quello che è successo a Fondi, penso al comune di Medicina in Emilia Romagna. È una cosa molto semplice, al di là del fatto che io ritenga, e così mi sostengono i miei giuristi dell'ufficio legale, che comunque i diritti costituzionalmente garantiti possano essere violati soltanto a certe condizioni dal governo e non dal presidente di una regione. Al di là di quello, nel momento in cui il governo decide di non realizzare una proposta che io ho fatto, come quella di istituire una zona rossa, io con chi vado a porre in essere? Io non ho a disposizione la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, che non dipendono da me, e quindi io non posso imporre loro di andare a chiudere le strade. Io non ho a disposizione neanche la Polizia locale, quindi non ho la possibilità di chiudere le strade. Ammesso che avessi fatto un'ordinanza di questo genere, che ritengo non legittima, come avrei potuto realizzarla? Chi sarebbe Presidente, andato a chiudere le strade? Mi perdoni, quanto ha giocato anche il fatto che almeno all'inizio i sindaci, penso per esempio a Giorgio Gori di Bergamo, scegliessero un modulo di rassicurazione, no? Giorgio Gori era andato al ristorante, si era fatto fotografare, Bergamo deve continuare. Quanto ha inciso anche questo? Ma guardi, è stata una sottovalutazione anche dei primi cittadini locali? Ma guardi, secondo me è stata l'informazione che non è stata molto precisa. Giorgio Gori è stato, come me, non è un tecnico, e quindi io per caso ho trovato la scelta giusta e lui magari per caso ha trovato la scelta sbagliata. Io credo che sia stata un'informazione cattiva da parte anche della comunità scientifica, che è andata avanti a contrapporsi in maniera abbastanza abbastanza cruenta. Io personalmente mi sono fondato più che su una valutazione scientifica sul fatto che le dichiarazioni che aveva rilasciato il presidente della Cina, che è persona che parla raramente e difficilmente dice delle cose che non siano fondate, quando disse che era stata l'evenienza più grave da un punto di vista sanitario della Cina degli ultimi 100 anni, beh, ecco, la cosa mi ha leggermente preoccupato. E da lì, al di là di quello che dicessero i sostenitori della tesi che si trattava di una cosa di nessuna rilevanza rispetto ai sostenitori contrari, io avevo fatto una mia scelta e avevo detto secondo me è una cosa grave, e per quello sono sempre stato da quella parte. Senta, per chiudere, Fontana, tutto risolto col governo? Ma io non ho mai avuto nessun problema col governo, guarda che io sento il ministro Boccia, il ministro Speranza, il presidente del Consiglio, non dico quotidianamente, ma certe volte anche bi-quotidianamente. E ripeto, se non c'è neanche la possibilità di avere due posizioni diverse, beh, vabbè, allora a questo punto la democrazia cosa esiste? Ci sono delle tesi e dei problemi che io avrei risolto in un modo diverso, e loro l'hanno risolto in un modo diverso. Ripeto, non c'è, se io le dicessi sì, che nel momento in cui il DPCM ha sopravvento sulla mia ordinanza io faccio la guerra e vado al TAR, le direi sicuramente che faccio una cosa sbagliata e dimostrerei di volere la guerra, ma io non voglio nessuna guerra. Se prevale il loro DPCM ne prendo atto. Con ciò la democrazia, ce ne abbiamo già una grande di guerra, no, presidente, da affrontare. Esatto. Con ciò diciamo che io posso, credo legittimamente, dire secondo me era più giusto la mia. Va bene, e beh, se non si può dire quello. Grazie, grazie al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Buona giornata. Buona giornata, una pausa. Mattino. E per un punto anche economico, anche di quello che sta succedendo in Europa, sull'allentamento del patto di stabilità, è con noi Fabrizio Pagani, torna da noi Fabrizio Pagani, attualmente capo globale delle strategie di Munich Co. e in precedenza capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pagani, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, buongiorno Maria, agli ascoltatori. Buongiorno, buongiorno Fabrizio Pagani. Senta, ci fa capire un po' che quali effetti avrà sul cosiddetto piano Marshall, che anche il nostro direttore Fabio Tamburini ha invocato per far ripartire l'economia una volta che si spera avremo vinto sul coronavirus. Ecco, quale effetto avrà questa prima decisione di sospendere il patto di stabilità? Quale effetto avrà per l'Italia? Pensiamo prima di tutto a noi adesso. Certo, allora, questa è una decisione molto importante. È una decisione straordinaria nel senso proprio del termine ed è una decisione che non si è mai presa. Si è inserita nel 2011 la possibilità di avere questa che si chiama via di fuga dal patto di stabilità e sostanzialmente significa una cosa, significa che tutte le regole che riguardano la finanza pubblica che erano stabilite dal quadro europeo fino ad oggi, vi ricordate il 3% del deficit, il deficit nominale, il deficit strutturale, la regola del debito, eccetera, sono sospese di fronte ad un evento imprevisto, imprevedibile e straordinario. E questo evento purtroppo si è verificato con l'emergenza del coronavirus. Quindi significa sostanzialmente che i paesi dell'Eurozona, a partire dall'Italia, potranno spendere secondo le loro necessità e le loro decisioni. Non c'è più un vincolo europeo, non dovremo più scrivere e chiedere l'autorizzazione per andare a deficit alla Commissione e alle decisioni del Consiglio. Ogni paese potrà decidere da solo. Naturalmente sarà bene, e questo è un punto importante, coordinare certe azioni, perché certe azioni funzionano meglio se sono prese a livello europeo. Pagani, e va bene, saltano le regole europee, salta la regola del 3%, però non salta la regola dei mercati e quindi, insomma, spendere sì, e però ovviamente per un paese come la Germania o come l'Olanda, per paesi come la Germania e l'Olanda è più facile, per noi diventa oggettivamente più difficile. Beh, non saltano le regole dei mercati, ma con la BCE che ha una potenza di fuoco di 1 trilione e 100 miliardi, perché non sono soltanto gli 750 decisi la scorsa settimana, ma sono 150 miliardi, ma sono anche i 120 precedenti e c'era anche un programma precedente, quindi è una potenza di fuoco enorme. Tenete conto che un trilione è circa un 8% del PIL europeo. Con questa potenza di fuoco anche i mercati si calmano. Maria. Allora, se anche i mercati si calmano, andiamo all'altro elemento di inquietudine di questi giorni, Fabrizio Pagani, il meccanismo europeo di stabilità, il cosiddetto fondo salva stati. Dalle opposizioni da tempo si mette in guardia perché dicono attenzione, è una specie di cavallo di Troia, questi ci danno i soldi ma poi ci commissariano e ci fanno finire come la Grecia. Se lei fosse Conte, che cosa direbbe al capo del fondo salva stati? Beh, io direi per metterci al riparo da richieste troppo stringenti. Direi due cose. La prima è che il fondo salva stati lo si può utilizzare soltanto se lo utilizziamo tutti insieme. Nel senso che non deve essere un solo paese come l'Italia a chiederne l'autorizzazione e l'utilizzo, ma se lo facciamo a 12 paesi o comunque un numero importante di paesi, se lo fanno l'Italia, la Francia, la Spagna assieme, questo diventa auspicabile. E la seconda cosa, gli direi, indipendentemente dai tecnicismi e da come il fondo salva stati interverrà, non ci devono essere condizionalità, cioè la condizionalità in questo caso è intrinseca, è dovuta al fatto che dobbiamo intervenire per rispondere all'emergenza coronavirus. Quindi l'unica condizionalità che accettiamo quando facciamo un'emissione del fondo salva stati è che questi soldi devo utilizzarli per contrastare l'emergenza, punto. Pagani, la sua impressione, guardando anche lo scenario europeo, è che gli altri paesi, diciamo quelli che non stanno vivendo una situazione drammatica come quella italiana, si siano resi conto della dimensione del tutto finalmente oppure no? Progressivamente sì, non c'è ancora il livello di tensione che c'è in Italia, attenzione anche, come dire, positiva, nel senso della presa di misure veramente drastiche, però sta arrivando in tutti gli altri paesi europei. Credo il fatto stesso che, non so se è confermata questa notizia, però l'ho vista su alcune importanti agenzie di stampa, che il cancelliere Merkel sia in quarantena, dà un'idea. Sì, è in quarantena perché ha incontrato un medico, un medico. Ha un'idea palpabile fisica di quanto il tema sia sentito ormai, sia presente nella vita politica di tutti i paesi. Mi scusi, questo potrebbe favorire l'operazione di cui ci diceva poco fa, cioè la richiesta di un ricorso massivo al fondo salva stati. Esatto. Devo andare però un po' oltre, se mi consentite, nel senso che questi soldi che noi prendiamo in prestito, poi dopo dovremo in certo modo restituirli. Allora, qui bisogna trovare qualche meccanismo per spalmare il più possibile questi prestiti, cioè per allungarne i termini, termini molto lunghi, trentennali, cinquennali, cinquantennali e così via, di modo da non oberare le nostre finanze. Qualcuno parla addirittura di prestiti perpetui, cioè in cui non si ripaga mai il capitale. Secondo me dobbiamo entrare, diciamo così, ed esplorare queste vie, perché solo così possiamo avere una sostenibilità della finanza pubblica sul lungo termine. La crisi pretende un intervento economico di una dimensione tale che solo con misure innovative di questo tipo riusciamo ad uscirne. Pagani, molti economisti, anche alcuni che sono diventati popolarissimi con i loro libri, penso ad Harari, no, l'autore di Homo Sapiens, dicono che da questa emergenza nascerà un mondo nuovo. Intanto si vedono dei sostanziali cambiamenti anche. Si comincia a parlare senza più problemi di nazionalizzazioni, si parla di nazionalizzare Air France, Lufthansa è in difficoltà, l'Italia tra molte critiche è stata nazionalizzata. Siamo, diciamo, alla vigilia di un cambiamento di paradigma, siamo alla vigilia di un ritorna una presenza dello Stato più incisiva e perché? Beh, sicuramente, almeno per un certo periodo lo Stato, gli Stati saranno più ingombranti, la presenza dello Stato sarà più forte perché anzitutto entrerà nell'economia in maniera molto più massiccia. Non possiamo pensare che lo Stato spenda un 10% del PIL e che questo non abbia un effetto, diciamo così, sul funzionamento del rapporto tra Stato e mercato, quindi questo sicuramente. Seconda cosa, abbiamo scoperto che ci sono delle filiere strategiche che, a cui francamente nessuno aveva pensato, cose banali tipo le mascherine, anche come dire molto low technology, no? Molto a basso contenuto tecnologico, che abbiamo bisogno di riportare nei nostri paesi. Pensate a questa guerra delle mascherine che c'è tra i paesi europei, questa stessa guerra si sta riproducendo in maniera ancora, se volete, più assurda tra gli stati americani all'interno degli Stati Uniti. Terza cosa, visto più generale, la crisi ha dimostrato che l'affidabilità delle filiere e delle delocalizzazioni in paesi lontani, in particolare in paesi dell'estremo oriente, qualche tema lo pone. Quindi un accorciamento delle catene del valore lo vedremo in maniera spontanea. Io credo che i governi, in particolare il nostro governo, il governo di un paese molto basato sulla manifattura, debba prendere delle misure per aiutare questo. Non oggi naturalmente, ma quando ci sarà la ripresa. Grazie Fabrizio Pagani per essere stato con noi. Buona giornata. Buona grazie giornata, grazie. Abbiamo un ascoltatore, Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Marco Perillo, chiamo dalla provincia di Milano. Prego. Gentilmente, allora... Rapidamente, Marco, che... Sì. Prego. Allora semplicemente, in Italia ci sono centinaia e centinaia di migliaia di contagiati. Questo è evidente, basta fare due conti. La questione cos'è? Come mai la protezione civile ancora oggi riesce a dire no, la mascherina non serve, serve solo per proteggere gli altri? Io e il commissario, qua siamo lontani un metro e mezzo, non serve la mascherina. Se ci sono 500.000 persone in giro contagiate e si mettessero la mascherina, perché non lo sanno, probabilmente il contagio si sarebbe diffuso molto meno già da settimane. Sì. Allora Marco la fermo, più che altro perché sul tema mi pare Maria della mascherina si è fatta una confusione terrificante. Purtroppo non ci sono, questo è il problema. Sì. Non ci sono sufficienti mascherine per tutti. Non ancora almeno. Poi se alcuni paesi europei, diciamo, non le bloccassero, come ha fatto la Repubblica Ceca, che per poi fortuna, le ha sbloccate, poi le hanno però sbloccate. Ecco, sì, ecco. A proposito di solidarietà tra europei, sarebbe una buona cosa. Federico D'Incà, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Prego Maria. Buongiorno. Senta, Ministro, c'è tutta adesso un ritorno, no, delle opposizioni sul terreno di attacco, perché dicono il Parlamento si deve riunire, deve riunirsi anzi ad oltranza, perché certi provvedimenti in Parlamento vanno discussi. Ci dice quando il Parlamento si riunirà? Semplice, domanda proprio essenziale. Io credo il Parlamento si è riunito alla Camera anche mercoledì pomeriggio scorso, io ero alla Camera, tra l'altro è intervenuta anche Giorgia Meloni, poi abbiamo fatto una capigruppo, sempre al Senato invece, di 4 ore, per determinare con i gruppi di maggioranza e di opposizione un percorso per i 4 decreti sul coronavirus che sono al Senato in questo momento e che intendiamo convertire in legge prima del 30 di aprile, quei giorni, poi 45 giorni, non i 60 giorni. E poi invece alla Camera sono presenti 2 decreti, quello sul cuneo fiscale e quello sulla legge olimpica. Poi questa settimana, domani, vi sarà l'audizione di Gualtieri, in collegamento con Camera e con Senato, nel quale appunto i parlamentari potranno capire tutte le dinamiche contenute all'interno del decreto Cura Italia. E poi sempre all'interno della settimana le commissioni del Senato si riuniranno e faranno l'attività. Però abbiamo, mi scusi D'Incà, la fermo non per questione di contenuto. Non vorrei che anche vi fosse in questa maniera poca responsabilità da parte dell'opposizione. Il Parlamento si sta riunendo e quando facciamo le capigruppo di Camera e di Senato, in cui partecipano i capigruppo dei vari gruppi politici, sono presenti quelli delle opposizioni e sinceramente abbiamo concordato con loro i vari passaggi prossimi per l'arrivo in aula di tutta quanta l'attività legislativa. Quindi mi sembra una polemica sbagliata in questo momento da parte dell'opposizione. Sì, intanto evidentemente si è spostato perché il mio problema era un problema tecnico, non la sentivamo bene, la sentivamo solamente a tratti, c'erano dei punti nei quali non la sentivamo. Senta, Dinca, abbiamo avuto venerdì ospite il presidente della Camera Fico, ma ha prospettato un'approvazione del adesso io non so più che. Allora, innanzitutto io non so più che cosa succederà dal punto di vista dei provvedimenti e le chiedo un chiarimento, perché dato che ne continuano ad arrivare, ne arriva uno ogni settimana, che cosa fate? Inglobate tutto? Come funziona? Ma, appunto, come dicevo prima, noi abbiamo 4 decreti sul coronavirus in questo momento, li abbiamo immessi tutti quanti all'interno di un unico veicolo, in questo caso il decreto Cura Italia, nel quale verranno in questa maniera verranno gestiti al Senato. Cioè, quindi, anche questo del fine settimana. Ma questo è un DPCM, questo, quindi non vorrei che facessimo confusione tra decreti legge e decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi sono due cose diverse. Poi vi sono anche le ordinanze fatte in quel caso invece dal Ministro della Sanità Roberto Speranza, quindi non vorrei che facessimo troppa confusione, una cosa è un decreto legge e una cosa invece è un DPCM. Il decreto legge passa all'interno della Camera e Senato in 60 giorni e poi diviene legge, il DPCM invece ha una sua operatività che già parte da oggi, dal 23, e quindi insomma ha un suo percorso. Primo maggio approvazione, come ci ha detto Fico, è un'ipotesi definitiva, è un'ipotesi probabile per tutti questi decreti legge sull'emergenza? Ma questa è una decisione presa con tutti i capigruppi di maggioranza e di opposizione, quindi all'interno delle conferenze dei capigruppo di Camera e Senato. Io lo ripeto, c'è un percorso strano, c'è quello che succede all'interno delle conferenze di capigruppo. Io ringrazio i partiti di opposizione con i loro capigruppi per definire insieme alla maggioranza un percorso veloce per la trasformazione in legge dei vari decreti legge, e poi c'è quello che succede esternamente all'interno dei talk show. A me dispiace di vedere questa diversità, spero che non sia soltanto polemica politica, ma che si voglia effettivamente fare il bene del nostro paese. In questo momento siamo tutti quanti italiani, abbiamo sempre cercato di poter costruire i vari decreti con l'opposizione, mi auguro che vi sia responsabilità. Cioè, in pratica lei, Ministro, sta dicendo che quando vi riunite in commissione c'è una collaborazione, come giusto che sia in tempi di emergenza, tra maggioranza e opposizione, e poi però la politica, anche la sopravvivenza, perché sennò se i leader dell'opposizione non dessero segni di vita cominciano ad avere dei problemi anche di visibilità, ecco, quello è un altro discorso. Cioè, lei distingue tra le cose che si fanno e si fanno d'accordo maggioranza e opposizione e poi invece gli attacchi pubblici. Però il Presidente della Repubblica Mattarella non sembra pensarla come lei, perché sembra piuttosto preoccupato, invita a una unione non di facciata ma di sostanza, e vedrà forse nei prossimi giorni anche i leader della maggioranza, non Berlusconi magari perché si trova all'estero, ma Salvini e Meloni, e quindi cercherà di comporre un po' il quadro. Le chiedo però un'altra cosa, quali modifiche a suo giudizio tra quelle che l'opposizione chiede per il decreto Cura Italia potrebbero incontrare anche un accordo tra di voi? Quale? Me ne cita una. Io ci tengo a dire una cosa, cioè noi abbiamo ascoltato col Presidente Conte i leader, c'era Tajani, Salvini, Meloni all'interno del Palazzo Chigi, nella quale in una lunga mattinata abbiamo ascoltato le loro richieste. Poi attraverso gli esperti economici, in questo caso era Brunetta, Alberto Bognai è responsabile economico di Fratelli d'Italia, il ministro Gualtieri ha in teleconferenza ascoltato le loro richieste, le abbiamo inserite già all'interno del decreto. Io in questo momento non saprei dire quali sono le indicazioni che le opposizioni vogliono mettere in campo, ma ci sono le commissioni per questo, e ripeto, nella settimana in corso al Senato si terranno tutte quante le commissioni sul decreto Cura Italia, al suo interno avrà i 3 decreti precedenti e li ascolteremo i vari emendamenti che verranno proposti. Io nell'ultima conferenza del capigruppo al Senato ho detto anche se ci danno delle indicazioni più specifiche, più specifiche di quali sono gli emendamenti che per loro sono importanti, cerchiamo di poter andare incontro alle esigenze, ma non tanto perché vi sia una qualche forma di bontà nei confronti dell'opposizione o della maggioranza. Semplicemente, se le idee sono positive e buone per il nostro paese, cerchiamo di fare il meglio possibile. Questo è un atteggiamento costruttivo da parte della maggioranza e da parte del governo. E invece quello che vedo io è che una volta che si esce da, diciamo, dall'ambito parlamentare, dalla conferenza dei capigruppi, la polemica politica, diciamo, prevale. Ha una costruzione diversa. Questo prevale. Sinceramente, a mio parere, è sbagliato e mi auguro che ci possa essere molta maturità nei prossimi giorni e si capisca che in questo momento siamo tutti quanti combattenti all'interno di una guerra dove il nemico è il coronavirus e non sono gli altri partiti politici. Questa è la nostra definizione. Grazie a Federico D'Incà, ministro per i rapporti col Parlamento, per essere stato con noi. Buona giornata, D'Incà. Buona giornata. Grazie. Ministro. Cara Maria, abbiamo un paio di ascoltatori, ce li vogliamo sentire? Che dici? Come no, certo. Dai, Maria Teresa, la provincia di Vicenza. Maria Teresa, eccoci. Sono io, ecco, buongiorno. Senta, sì. Volevo dire questo, è un'idea, non so. Sì. Dica. Create dei luoghi di distribuzione della stoffa per le mascherine. Sì. E ci sono tantissime sarte, o per fare una mascherina non c'è bisogno di un genio. Quindi... E facciamogliele cucire, dice lei, in poco tempo. Datemi un po' di stoffa e io per quel che posso fare sono a casa, le faccio e così penso che siano a disposizione tantissime persone per farle. Non è male, non è male, una call to action alle sarte. Antonio da Milano, buongiorno. Mascherina fai da te. Sì. Antonio, sì, buongiorno. Eccolo. Buongiorno, volevo dire che io sono andato al supermercato ormai una settimana fa, in un grosso supermercato a Segrate, e ho notato che molti clienti non avevano una mascherina, passeggiavano conversando amabilmente tra le corsie, qualcuno si avvicinava per prendere un prodotto senza tenere le distanze di sicurezza. Io una volta tornato a casa ho chiamato il direttore del supermercato dicendogli: ma non potreste non potreste chiedere ai clienti di indossare una mascherina, e se una mascherina non si trova anche una sciarpa che copra naso e bocca va bene? Mi ha detto: no, non possiamo farlo perché la legge non lo prevede. Io gli ho detto: ma magari potreste almeno suggerirlo. Mi ha detto: no, non possiamo. Io spero che la situazione sia una questione di buon senso di ciascuno di noi, no? Se uno va al supermercato si mette la sciarpa. Però lasciatemi dire una cosa, che è una notizia che ho avuto proprio in questo momento. A proposito, vi ricordate, no, del premier britannico Boris Johnson, che ha fatto quel discorso durissimo: perderemo i nostri cari, dobbiamo arrenderci all'idea che molti dei nostri amati se ne andranno, pensava soprattutto agli anziani. Bene, il Times dà la notizia che il papà di Boris Johnson sta cercando di diventare cittadino francese e se ne vuole andare allora dal paese governato dal figlio. Si sarà spaventato di quel discorso che stamattina con Paolo Mieli ne parlavamo. Torna il grande tema degli anziani, naturalmente della protezione degli anziani e dei soggetti deboli. Cara Maria, ci risentiamo domani 8:20. A domani, grazie, un altro giorno. Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione, insieme a tutta la redazione come sempre, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera, Margherita Ine e Francesco Ciaraffo, che sono i nostri autori. Ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.